Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Pirandello diceva che l'umorismo è il sentimento del contrario. Per spiegare questo concetto si serviva di un'immagine mitologica, un'erma bifronte, leggendaria creatura a due teste. Pirandello immagina un'erma bifronte in cui una testa ride del pianto dell'altra. Gli attori comici spesso sono così. Sono grandi maschere tragiche, imprigionati in un ruolo, in uno stereotipo. Devono far ridere per campare. Spesso però hanno il cuore gonfio di tristezza e sofferenza. Siamo a Castelvetrano, provincia di Trapani. Per i siciliani è Castel du Vitrano. È un paese di 30.000 abitanti, celebre soprattutto per essere a pochi passi dal centro archeologico di Selinunte e per avere dato i natali a Giovanni Gentile, filosofo e teorico del fascismo, autore della famosa riforma scolastica e fondatore dell'enciclopedia Treccani. Una sera qualsiasi di una fresca primavera siciliana. Al Cineteatro Capitol di Castelvetrano, la popolazione del piccolo borgo si accalca alla biglietteria. È una serata di svago, uno di quei momenti in cui la fatica della ricostruzione post-bellica, le sofferenze della povertà possono essere alleviate con qualche sorriso. Va infatti in scena una rassegna di numeri comici e musicali presentati dalla compagnia teatrale di proprietà di Pasquale Pinto, una delle più seguite nell'Italia meridionale del dopoguerra. Sciori, sciori, sciorilli tutto l'anno, l'amore camera sti di ritorno. Il capo comico della compagnia si chiama Giuseppe Pellegrino. Sa bene che il pubblico di Castelvetrano è particolarmente esigente, per cui ha preparato un repertorio di numeri estremamente vario e ricco di novità. Quando si alza il sipario, gli applausi abbondanti fanno comprendere che il pubblico gradisce. In coda alla serata è il turno di due giovani attori siciliani che vivono in questo contesto il loro debutto in coppia. In fatto di esperienza sono complementari. Uno dei due ha già accumulato una certa esperienza sul palcoscenico, l'altro no. In realtà sono opposti in tutto. Uno alto, l'altro basso. Uno più riflessivo e composto, l'altro istintivo e incolto. Quando arriva il loro turno, però, questi due ragazzotti di Palermo sono entrambi emozionatissimi. Forse qualcosa fa loro intuire che quella di stasera è un'occasione che rivoluzionerà le loro vite. In realtà, a rivoltare le loro esistenze ci ha pensato il destino, facendoli incontrare. Prima di gustarci il loro numero, allora, andiamo a capire chi sono e a scoprire la storia del loro rocambolesco incontro. Allunga, perché siamo meglio sotto di te? La Sicilia degli anni 20 non è molto lontana da quella che Giovanni Verga aveva descritto nei suoi romanzi e nelle sue novelle. In questa terra meravigliosa, ricca di contrasti, di gioielli e di ferite, le classi subalterne, i contadini, i pescatori, gli operai, vivono in condizioni di povertà estrema e lottano costantemente per la sopravvivenza. L'unità d'Italia sembra aver cementato il solco profondo che divide l'aristocrazia nobiliare, ormai in caduta libera, ma fieramente ancorata ai propri privilegi, e questa folla di vinti, a cui è resa inaccessibile qualsiasi possibilità di riscatto. Palermo, una delle città più affascinanti d'Europa, agli inizi degli anni 20 è seducente, meravigliosa, paradossale. Il contesto paesaggistico di una bellezza unica. Goethe aveva definito il Monte Pellegrino, che si staglia dietro alla città, il più bel promontorio del mondo. In quegli anni è evidente però il contrasto tra l'eleganza e la compostezza di alcuni quartieri e il degrado di zone malfamate come la Vucciria, Brancaccio o il Rione del Capo. Via San Gregorio, negli anni 20, è uno dei tanti poverissimi vicoli della parte più misera di Palermo. Si trova a pochi passi dal Rione del Capo. Nel 1922, passeggiando per questa via, facendo attenzione ai borseggiatori, si incontrano la miseria e la povertà, ma si respirano anche profumi indimenticabili provenienti dai vicini agrumeti, dai mandorli, che fioriscono in primavera persino in città. Altri odori arrivano dalle abitazioni, dove le donne cucinano quello che trovano con l'orgoglio tipico di chi non vuole arrendersi all'indigenza. Proprio qui, in via San Gregorio, nasce il 5 ottobre 1922 il nostro primo personaggio di oggi, uno di quei due attori che abbiamo intravisto sul palco di Castelvetrano. Tutti lo chiameranno Ciccio. Il suo nome però è Francesco Ingrassia. Francesco Ingrassia. Diamo per prima cosa un'occhiata alla famiglia di Ciccio Ingrassia. È l'ultimo di cinque figli. Gli Ingrassia vivono in condizioni decisamente modeste. Il padre è un operaio, la madre è casalinga. I soldi non bastano mai. Come avviene spesso in questi casi, il futuro dei figli, almeno sulla carta, viene stabilito dai padri più per necessità che per senso paterno. Poi però talvolta ci pensa il destino ad aggiustare le cose. Per Ciccio, così, c'è un futuro come intagliatore di calzature. Almeno così pare. La fame è stata nel mio inizio, nella mia gioventù, fino a età, una mia amica prediletta. Mi trova bene della fame. Eravamo amici intimi con la fame. Ne so qualcosa, credimi. La fame e la povertà, però, non riescono a spegnere una passione che brucia dentro al petto di Ciccio Ingrassia fin da giovanissimo: la recitazione. Un'attrazione fortissima, insopprimibile, che assume presto i contorni di un sogno da inseguire con tutte le forze. Quando scoppia la guerra, Ciccio ha solo 18 anni. La vita è sempre più dura, forse la voglia di sorridere è poca. Il desiderio di regalare un sorriso in questo giovane uomo, che nonostante la miseria pare avere una predisposizione per i modi nobili e raffinati, sembra diventare progressivamente un'esigenza incontenibile. Ciccio Ingrassia, così, nei ritagli di tempo, si inventa attore. Di talento ce n'è. Così finisce subito in qualche insignificante compagnia d'avanspettacolo nei bassi fondi di Palermo. Poi, nel 1943, arrivano gli americani. Negli anni dell'occupazione americana, a Palermo, proliferano gli spettacoli organizzati in maniera piuttosto improvvisata per allietare le truppe degli alleati. Ciccio Ingrassia intensifica il numero delle sue esibizioni, amplia il suo repertorio, si forma una cultura teatrale piuttosto confusa e varia, ma molto ricca. Il nipote, Pietro Scalisi, ricorda la passione dello zio. Cioè aveva questa passione morbosa che a quella volta rifiutava il lavoro di fare il tagliatore di scarpe, perché aveva la passione per il teatro, sempre. Proprio nella seconda metà degli anni 40, Ciccio Ingrassia inizia a frequentare il bar degli artisti. Per chi ha dimestichezza con il capoluogo siciliano, si trovava in via Rossini, dove oggi sorge il rudere della vecchia Arena Trianon. Qui si trovano tutti gli artisti o presunti tali di Palermo. Qui Ciccio può sognare ad occhi aperti, immaginare di far parte di quel mondo cui desidererebbe appartenere, e lo desidererebbe più di ogni altra cosa. Ci va dopo il lavoro, che con la presenza degli americani si è intensificato. È stanco, affamato, provato, ma il contatto con il suo sogno lo rincuora e lo fa star bene. In questo locale Ciccio Ingrassia incontra Enzo Andronico, altro aspirante attore, e un tale che si fa chiamare Ciampolo. I tre decidono di dare vita a uno scalcinato trio comico, il trio Sgambetta. Canto per magnà e per strappa la mancia all'avventore. Nell'ottobre del 1944, a Termini Imerese, arriva l'occasione del debutto per il trio. Condizione del capocomico, smoking e calze di seta. Ciccio rimedia lo smoking da un amico, la calza quella no. Si dipinge con vernice nera lucida i piedi e va sul palco così. Il piccolo teatro di Termini è gremito. I piedi di Ingrassia bruciano, la vernice gli causa dei dolori enormi. Ma non importa, gli occhi sono lucidi, lacrime di gioia, di passione. Il primo passo per conquistarsi un sogno è stato fatto. Ciccio lascia il lavoro, vuole fare l'attore. Per il momento sa che dovrà fare la fame. Bastava quell'attimo di applauso della sera dopo aver fatto lo spettacolo a ripagarti tutti i sacrifici che tu avevi fatto, i respingenti, il carro bestiame, scappare da un vagone all'altro, c'era la lotta fra controllori e noi, quello sarebbe dentro i gabinetti chiusi, sotto. Perché? Per fare il teatro. Dice, vabbè, ma quando facevi il teatro tu la sera ti pagavano, no? E là avevi fatto. Dice, ma allora perché lo facevi? E a sto punto a chi lo chiediamo? Perché volevo fare il teatro. Riuscendo a resistere ai morsi della fame, Ingrassia accumula, specialmente dopo la liberazione, una certa esperienza teatrale. Per un breve periodo vive a Torino, dove fa da spalla a un certo Gino Bramieri, allora esordiente, impegnato nel numero poi suo cavallo di battaglia dell'ubriaco. Mentre si trova a Torino, finisce anche in carcere per 3 giorni. In una latteria avviene un furto, i carabinieri non trovano il colpevole e scelgono di basarsi su uno stupido stereotipo. Accento siculo, stracci addosso, fame radicata nell'anima. Ciccio ci mette 3 giorni a discolparsi. Dopo Torino, Ingrassia recita a Genova, a Pescara, a Foggia. I soldi e il successo però sono ancora lontani. Passare sinnie. Siamo all'inizio degli anni 50, siamo a Palermo. Continuiamo a seguire la quotidianità difficile e problematica di Ciccio Ingrassia, aspirante attore, neanche trentenne, che per seguire una sua passione conduce una vita che gli stesso definirà al limite dell'abbruttimento. Nelle lunghe giornate del capoluogo siciliano, Ingrassia tocca alcune tappe fisse e obbligate. Tra queste, un luogo di ritrovo dove fare affari, dove trovare ingaggi, è il celebre mercato della Vucciria. La Vucciria è uno degli antichi mercati di Palermo, insieme a Ballarò, Borgo, Il Capo e il Mercato delle Pulci. Si trova nel mandamento La Loggia, tra via Roma, la Cala, il Cassero, lungo la via Cassari, la piazza del Garraffello, la via Argenteria Nuova, la piazza Caracciolo e la via Maccheronai. Il nome Vucciria deriva dal francese boucherie, che significa macelleria. Anticamente era chiamato la Vucciria Grande, per distinguerlo dai mercati minori. La Vucciria, nel siciliano di Palermo, è sinonimo di confusione per via del sovrapporsi indistinguibile delle voci e delle grida dei venditori che hanno sempre caratterizzato il mercato. Un mercato che esiste fin dal 1500. Nei vicoli stretti e affollati della Vucciria, Ingrassia assiste alle esibizioni degli artisti ambulanti. Tra questi c'è un gruppo che lo colpisce particolarmente. Si tratta di una compagnia ambulante napoletana, malmessa, trasandata, specializzata nella cosiddetta posteggia. Ma che cos'era la posteggia? Era uno spettacolo che si svolgeva per le strade. C'era il forzuto, il fachiro, il cantante ballerino. La piccola orchestrina. La posteggia non si svolgeva soltanto per le strade. I posteggiatori erano sempre pronti ad attaccare nelle taverne odoranti di pomodoro, pizza e zuppa di pesce, per le serenate ai piedi di palpitanti innamorati, per battesimi, comunioni, matrimoni. Irrompevano in case private nel cuore di quelle situazioni dove le passioni del popolo erano più forti e talvolta trascendevano in risse, rocamboleschi parapiglia o tragiche vendette per onore o gelosia. La compagnia napoletana che si esibisce alla Vucciria davanti agli occhi ammirati di Ciccio Ingrassia ha come punta di diamante uno scapestrato attore e mimo palermitano. Un personaggio incontenibile che fa della surreale capacità mimica del suo volto il punto di forza del suo repertorio eccessivo. Ingrassia non era uno che rideva spesso, eppure vedendo quel disarticolato comico ride di gusto. Quello che Ingrassia non sa ancora in quel momento è che anche quel comico, allora a lui sconosciuto, l'ha notato e lo conosce. Ha visto che si diverte guardando i suoi spettacoli. Così, un pomeriggio del 1954, i due si incontrano nel bar degli artisti. Ciccio Ingrassia probabilmente stava bevendo qualcosa mentre chiacchierava con altri artisti da strada. Avrà sentito una mano sulla spalla. Il mimo della Vucciria gli si presenta con una proposta. Perché non facciamo qualcosa insieme? Un numero, uno spettacolo. Mi piacerebbe molto. Mi presento, avrà detto il guitto. Il mio nome è Francesco Benenato. Ma per tutti, sono Franco Franchi. Franco Franchi. Barone! Buttate giù! Deciditi! Io vado! La corrente mi porta via! Vieni! Vieni! Oh, comuniancio! Il giullare nel Medioevo era una figura controversa e indefinibile, vagabondo, straccione, miserabile, eppure geniale, estroverso, sbruffone, incontenibile. Il giullare era genio e sregolatezza, era al tempo stesso rozzo e colto, basso ed elevato. Spesso era disprezzato dalla gente, che amava però i suoi numeri, che erano parlati, cantati o addirittura ballati. In altre parole, il giullare era un corpo, un organismo che aveva un unico scopo: far ridere, a prescindere da tutto quello che può passargli nel cuore. Ora che la luce ritornò, si deve ridere. Maestro, avanti i buffi. I buffi? Ho detto avanti i buffi, si deve ridere. Ma noi non l'abbiamo portato, i buffi. Ma come un festino di matrimonio senza i comici? Saruzzo e Giosalino, loro conoscono le canzoni ridicole. Alla festa di Santa Giosalina. Ah, sta bene. Allora questa volta i buffi sono gli sposi in persona. Avanti, salite sul palco e fateci ridere. Ma veramente? Adesso, per cose nostre private, non siamo tanto disposti. Ho detto fateci ridere. È vero che volete ridere? Sì, vogliamo ridere. Vogliamo ridere subito. Subito. Le voci che avete sentito dialogare con Vittorio De Sica nel film L'onorata società del 1961 sono quelle di Franco Franchi e di Ciccio Ingrassia. Oggi raccontiamo la storia del loro incontro, della svolta che esso porta nelle loro vite. La storia, insomma, di due giullari dell'era moderna. Abbiamo seguito i primi passi di Ciccio Ingrassia. Nei primi anni 50 Ciccio incontra nel mitico bar degli artisti un attore che aveva visto spopolare come artista ambulante nel mercato della Vucciria. Si chiama Franco Franchi. I due si accordano per fare qualcosa insieme. Non sanno che diventeranno una coppia storica del cinema italiano. Prima di scoprire il loro esordio, diamo un'occhiata all'infanzia di Franco Franchi. Vicolo delle api, angolo via terre delle mosche. Sembra già una gag, invece è il punto di Palermo in cui nasce Franco Benenato, vero nome di Franco Franchi, nel 1928. Bene nato. Bene nato, anche perché io sono nato male. Appunto. Poi ho dovuto aggiustare tutto quanto. Pensa che io sono nato in Vicolo delle Api. Poi sono migliorate le cose e sono andato ad abitare in via Terre delle Mosche. Mi mancava Piazza Zanzara ed ero all'angolo di via Scarafaggio. Eh sì, non è certo nato bene, Franco. Vede la luce in una famiglia numerosissima. Non si sa nemmeno bene quanto numerosa. Lo stesso attore ha sempre fornito indicazioni piuttosto vaghe in proposito. Io dormivo insieme ai miei 18 fratelli. Sì. È una vecchia storia. Comunque, allora? E l'ultimo, che era di 3 mesi. Piangeva e non ci faceva dormire. Senti come piangeva. Cominciava così. I bene nato sono poverissimi. Franco negli anni 30 non completa nemmeno le elementari per aiutare il padre muratore a raggranellare più soldi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale i genitori emigrano in cerca di fortuna. Franco rimane e per sbarcare il lunario inizia a svolgere ogni genere di lavoro: operaio, carpentiere, garzone di pasticceria, facchino, un po' di tutto. I soldi non bastano mai e per sopravvivenza arriva anche qualche furto nei mercati palermitani e di conseguenza anche qualche giorno di galera. Mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella, niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai. Franco è però affascinato dalla recitazione e in particolare dalla comicità in cui vede un modo per sorridere amaramente della propria disgraziata condizione. Così a 17 anni, quando i genitori di fatto lo abbandonano, arrotonda gli stipendi girando per la città come banditore oppure suonando la gran cassa. Inizia anche a improvvisare qualche numero comico ed è così che Salvatore Polara, un musicista napoletano direttore di una compagnia che fa la posteggia, lo nota. Sono gli striscianti. Franchi riceve 6 lire a settimana. Con gli striscianti realizza concerti musicali per le vie, le piazze e per i ristoranti dell'Italia meridionale e non disdegna nemmeno animazioni per cerimonie come matrimoni e battesimi. È qui che nasce il suo primo personaggio, Ciccio Ferraù. Franco è anche imitatore di personaggi famosi, Totò, Benito Mussolini, Hitler. Tutti i palermitani che non possono permettersi un biglietto per il teatro vengono a sentirlo. Fino al 1950. In quell'anno Franchi lascia la compagnia di Polara. Cerca nuovi ingaggi, non li trova, viene arrestato per piccoli furti. Dopo infinite peregrinazioni, il servizio militare, un matrimonio con Irene Gallina, Franchi torna a fare la posteggia a Palermo. E proprio qui ha uno spettatore speciale, Ciccio Ingrassia. Lui mi veniva a sentire dove lavoravo io nelle piazze e rideva, stranamente, perché Ciccio non è uno che ride. Ciccio non ride quasi mai. Quelli che sentite sono gli applausi che il pubblico di Castelvetrano tributa a Franco e Ciccio dopo la loro prima esibizione. È cor in grato. Catarina. Quello che non erano riusciti a fare da soli, Franco e Ciccio riescono a farlo in coppia. Da quella sera a Trapanese è un'escalation inarrestabile. I due girano presto l'Italia intera, imponendosi con numeri che intrecciano mimo, canzone popolare, comicità slapstick. Nel 1958 si esibiscono al Salone Margherita di Napoli. La fame inizia a diventare solo un terribile ricordo. Il loro incontro ha cambiato per sempre le rispettive vite. Nel 1959 uno spettacolo catanese le cambia nuovamente. Così lo ricorda Pippo Baudo in Come inguaiammo il cinema italiano, bel documentario che nel 2003 Cipri e Maresco hanno dedicato a Franco e Ciccio. Franco e Ciccio li ho conosciuti in Amaspettacolo, esattamente a Catania. Io facevo lo studente, aveva vinto il Festival di Sanremo Modugno, e in genere i vincitori del Festival di Sanremo, anche il secondo classificato, veniva messo come capofila di una compagnia d'avanspettacolo. Cioè il primo tempo lo faceva sempre l'avanspettacolo un po' ridotto, la seconda parte era appannaggio dei cantanti. La verità è che queste compagnie d'avanspettacolo erano normalmente scarse, cioè era un momento per supporter, cioè uno aspettava un po' in attesa che il cantante arrivasse. Invece Franco e Ciccio avevano un grandissimo successo, e con tutto il rispetto nei confronti di Modugno, alla fine, quando Modugno ringraziava, il pubblico chiamava Franco Ciccio, Franco Ciccio, tant'è vero che Modugno intuì la simpatia dei personaggi, la forza, e li scritturò. I Musicarelli sono i film musicali italiani che negli anni 60 spopolano e lanciano i cantanti più seguiti dai giovani e i loro nuovi album. Lo stacco musicale che avete sentito appartiene ad Appuntamento a Ischia del 1960, regia di Mario Mattoli, protagonista Domenico Modugno. È il film d'esordio di Franco e Ciccio. Il mio primo ricordo di Franco e Ciccio è, devo dire, un film che fece Mattoli, che era Appuntamento a Ischia, dove loro facevano una breve apparizione, però già vedendoli, io e Castellano, che essendo degli autori brillanti, degli autori di film comici, avevamo visto già una forza della natura che si presentava al pubblico. È la voce di Giuseppe Moccia, padre dello scrittore Federico, più conosciuto come Pipolo. Insieme a Franco Castellano, è uno degli sceneggiatori più prolifici del cinema comico italiano. Proprio loro scriveranno molti dei copioni dei film di Franco e Ciccio, che sono un numero spaventoso, 132, molti dei quali girati negli anni 60. Film amatissimi dal pubblico e maltrattati dai critici, come ricorda il compianto Tullio Kezic. Dovevamo essere tutti, diciamo, un po' più ricettivi. In realtà eravamo ricettivi da spettatori, perché quando vedevi Franco in Grazia o vedevi Totò, come spettatore ridevi, poi andavi a casa e dovevi scrivere il pezzo e dicevi ancora uno di quei filmacci in cui... Franco e Ciccio hanno fan insospettabili che si annidano ovunque. Ninetto Davoli ricorda come il duo facesse ridere di gusto anche il grande Pierpaolo Pasolini. Noi non andavamo al cinema, però come ci capitava la cosa in televisione di Franco e Ciccio in Grazia, stavamo lì con Pierpaolo e ridevamo come pazzi. Questa è la parabola ascendente dei due comici siciliani venuti dai quartieri poveri di Palermo, dalla Vucciria e da Ballarò. Franco Franchi, nonostante l'amore del pubblico, soffre moltissimo per lo snobismo della critica. Ma i due, fino agli anni 70, macinano un film dietro l'altro. Poi arriva una lite e un decennio di separazione che dimostra in maniera netta le qualità della coppia, capace di scindersi e di dar vita a due brillanti carriere come solisti. Con la riconciliazione, datata 1980, arriva però l'inizio della discesa per il duo palermitano. Una discesa malinconica. Destini incrociati. Divertirsi è una cosa importante, come il sole. Il sole ci dà calore, il sole ci dà la possibilità di andare fuori senza giacca, e quindi è una cosa bella. Il sole io lo paragonerei a un grosso comico che ci tiene a lei. Oggi a Destini Incrociati è di scena l'incontro fortuito quanto decisivo tra Francesco Ingrassia e Franco Benenato, conosciuti come Ciccio e Franco. Senti, non ti sembra il momento di scegliere? E scegliamo, tu quale vuoi? Se non hai niente in contrario, io prenderei Pia. Sei cretino! Io non ho nulla in contrario, sono uguali! Va bene, allora la tua è mia. E che discorso sono? Se è mia, è mia. Ebbene, io che sto dicendo? La tua è mia. Ciccio, ti do una coltellata e due scariche all'opara. Certo. È mia, è mia! E questo sto dicendo, sì, che è tua, ma è mia. Tua è mia, capisci? Cioè, tu prendi a mia. Io sposo a Tia. E che facciamo, la razza dei cani barboni? Ma che discorso sono? Ma cerca di capirmi, la tua è mia, capisci? Mia! No, è mia! La coppia gira insieme 132 film. Non sono film d'arte, questo è certo. Ma se paragonati a certo cinema italiano che fa botteghino dagli anni 80 ad oggi, il cinema di Franco e Ciccio non può che sembrare più nobile, gentilmente allusivo e decisamente più composto. Eppure la critica non li ha mai amati, mentre gli intellettuali di tutto il paese li hanno seguiti divertendosi di nascosto. I due hanno vissuto anche momenti di crisi, periodi in cui la loro amicizia si è incrinata. Franco veniva accusato da Ciccio di essere un megalomane. Ciccio invece spesso faceva valere con arroganza la propria superiorità culturale. Fatto sta che per tutto il decennio degli anni 70 Franco e Ciccio rimangono separati, ma il loro successo continua. Vado a prendere, lascia una donna, figlio mio. No, no, che donna tu ci prendi? Oh, Dio, guarda dove è andata a finire. A voi una donna! È un estratto da Amarcord di Federico Fellini, una delle collaborazioni più prestigiose per Ciccio Ingrassia, arrivata nel periodo di lontananza da Franco. Fellini, simpaticamente, regalerà alla storia questa affermazione. Gli americani hanno Ernest Borgnine, noi abbiamo Ciccio Ingrassia. Franco in quel decennio fa un po' di tutto. Anche lui si cimenta con un cinema più impegnato. Poi colleziona apparizioni televisive, spettacoli teatrali. Le sue gag corrono a briglia sciolta. E Franco si cimenta anche con la canzone. Prima si classifica secondo al Festival della Canzone Napoletana con O di Volta. Voglio divorzia, ti voglio divorzia, perché ha già campo in piena libertà. Poi Franchi pubblica un album in cui riesce a dare di sé una versione più ricca e completa. Non più solo il giullare Franco Franchi, bensì anche l'uomo che conserva nel cuore il lato scuro, sofferto, sofferente degli esordi. Romantico, sofferto, raffinato, le femmine mi trovan de modè, mi critican le ghette il guanto bianco, mi escludono le danze col casquet. Franco e Ciccio si rimettono insieme sul piano artistico nel 1980. Domenica Inn, la nota trasmissione contenitore della Rai, ospita il pubblico ricongiungimento. Da quel momento in poi Franco e Ciccio riprendono a lavorare insieme a un ritmo forsennato, accettando qualsiasi cosa venga loro proposta da chiunque. I due però mirano anche alla definitiva consacrazione, anche presso la critica. I fratelli Taviani, icona del cinema d'autore, li chiamano per una parte In Chaos. Tu aiutami ad uscire. Aiutami ad uscire. Porco di Giuda, aiutatemi ad uscire. I fratelli Taviani capiscono in ritardo, ma prima di tutti gli altri, una verità molto semplice. Dietro ai volti grotteschi e comici di Franco e Ciccio si nascondono due maschere tragiche. È quello che capita spesso agli attori comici. Talvolta segnati da esistenze infelici, sono costretti a vivere il dolore in una dimensione tutta interiore perché il loro pubblico vuole ridere. Quando possono finalmente fondere la loro arte con le profondità del loro cuore, riescono a commuovere, come nessun altro. Purtroppo però, per Franco e Ciccio, il finale tragico non è quello di un film. Non è sul grande schermo, ma è drammaticamente vero. Abbiamo già detto di come all'inizio degli anni Ottanta, tornati insieme, la coppia accetti praticamente ogni proposta che venga loro sottoposta. Lo fanno forse con troppa leggerezza e la pagano cara. Nel 1981 a Palermo viene girato un inguardabile B-movie all'italiana. Renzo Montagnani, Barbara Boucher, Giorgio Bracardi e naturalmente Franco e Ciccio vengono convocati sul set. Il problema è che la parte del protagonista viene assegnata a un attore esordiente e non professionista che si chiama Giuseppe Greco, che ha anche scritto e prodotto il film. Il magistrato Giuseppe Ayala spiega chi è Giuseppe Greco. La vicenda di Franco Franchi per un brevissimo periodo è stato tra i nostri indagati. Lì tutto nasceva dalla partecipazione a un film che era stato prodotto, forse era anche il regista se mal non ricordo, dal figlio di Michele Greco, detto il Papa, che era il capomafia riconosciuto all'epoca di Palermo. Giovanni Falcone iscrive Franchi al registro degli indagati dell'indagine che avrebbe poi portato al maxi processo Quater. È solo un'indagine preventiva che dura peraltro pochissimo tempo. Un tempo sufficiente perché i giornali ingigantiscano la cosa e distruggano l'immagine dell'attore, come ricorda Giampiero Ingrassia, figlio dell'amico Ciccio. Poi come sempre, magari quando uno è accusato dei paginoni enormi sui giornali, poi quando c'è la smentita magari è un trafiletto che nessuno nota. Già. Perché la semplice ombra del sospetto distrugge Franco Franchi, che si presenta dai giudici, risponde alle domande, chiarisce ogni cosa. Ma se la giustizia e la magistratura fanno il loro corso, l'opinione pubblica letteralmente lo distrugge. Gli vengono fatti in qualche modo pagare le umili origini, i piccoli furtarelli commessi da adolescente alla vucciria, come se la miseria fosse un'infamia che ti segna per sempre. La figlia di Franchi, Maria Letizia, ricorda così la reazione del padre. Vissuta mio padre, si è chiuso in casa, mio padre si è fatto crescere la barba, non voleva più uscire e ha sofferto. Franco Franchi è uno che, come tanti altri, come è successo anche a Napoli, nel contesto ovviamente non mafioso ma camorristico, c'erano gli artisti che venivano invitati a esibirsi, io ricordo Mario Melo, ebbe anche lui, virgolette, guai con la giustizia per queste frequentazioni, ma noi facevamo i magistrati, insomma. Questo può essere uno spunto di indagine, quando ti rendi conto che tutto si apre e si chiude lì, l'archiviazione è d'obbligo. E nel caso di Franchi capimmo che lui non aveva nessun legame degno di nota da un punto di vista processuale con la mafia. Aveva dei rapporti di frequentazione, ma insomma non puoi criminalizzare anche questo. Dopo questa vicenda, Franco Franchi non si riprende più, anzi si ammala. Un male oscuro, tremendo, che lo risucchia progressivamente. Ciccio, amico ritrovato, gli è vicino durante il processo e durante la malattia. È il 1992. Franco e Ciccio accettano di condurre una trasmissione su Rai 3. Si chiama Avan Spettacolo, proprio come il genere popolare di cui erano stati grandi protagonisti. Durante le registrazioni del programma, però, Franco si sente male e deve abbandonare. Torna in tempo per l'ultima puntata, in tempo per rivolgere al suo pubblico un commovente saluto. Non si poteva chiudere questo spettacolo senza la mia presenza. Dico questo perché ci tenevo molto. Dopo tutto quello che è stato detto, la gente un po' confusa, e allora bisognava venire qui e dare questa testimonianza a tutti quelli che ci hanno sempre amati, che ci hanno sempre seguito, che ci hanno sempre sostenuti e che siete voi. Franco Franchi si spegne il 9 dicembre 1992 a Roma. Il momento in cui è stata data la notizia a Ciccio, perché io ero davanti quando lui è stata data la notizia, lui mi ha guardato, mi ha visto piangere, mi ha detto non piangere perché papà si dispiace. Io l'ho guardato perché ho detto impazzito Ciccio. E allora, pur nel momento del dolore, e allora la dottoressa che era lì vicino lo ha fatto sedere e gli ha detto: signora Ingrassia, il signor Franchi non c'è più, la prego si sieda. Ecco, io lì ho visto che Ciccio era morto pure lui. Il giorno dei funerali a Palermo, Ciccio Ingrassia, col volto scuro, spento, di chi ha visto morire un pezzo di sé, segue il corteo e risponde alle domande impudiche dei giornalisti. In questo momento ci troviamo nei luoghi dove lui è nato, dove lui ha vissuto, dopo lui ha incominciato a soffrire, stiamo passando proprio dalla sua terra natia. Hanno detto tante cose di lui, un guitto, un attore di strada, un comico popolare. Qual è la definizione giusta per definire l'arte di Franco Franchi? Un grande artista e basta. Cosa ricorderà di lui? Tutto, tutte le grandi battaglie che abbiamo combattuto e vinto insieme. Ciccio Ingrassia sopravviverà al suo grande amico e compagno per 11 anni, fino al 2003. In questi anni, il volto triste della risata, come l'aveva definito Nino Manfredi, si chiuderà in un silenzio composto, rotto solo da qualche sporadica apparizione sul grande schermo. Una scelta che la figlia di Franchi, Letizia, racconta così.